Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La realtà aumentata entra in sala operatoria al Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Si tratta della prima operazione al mondo in cui il chirurgo indossa un visore di nuova generazione che lo guida durante l'intervento. Ne parliamo a Obiettivo Salute insieme all'ingegner Vincenzo Ferrari, ingegnere biomedico al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa e coordinatore del progetto. Il visore che abbiamo sviluppato è il risultato di un progetto finanziato dalla Commissione europea che ha visto la partecipazione di tanti partner europei e un buon numero di partner anche italiani, tra cui anche l'Università di Bologna che ha guidato la parte medica. E la particolarità del nostro visore è che può proiettare di fronte agli occhi dell'utente la pianificazione dell'intervento studiata nei minimi dettagli giorni prima dell'intervento stesso, a partire da immagini del paziente acquisite con scanner per risonanza magnetica o di tomografia computerizzata. Quindi ad oggi il chirurgo può prima dell'intervento definirsi esattamente la mappa dell'intervento, andare a definire esattamente ad esempio dove deve andare a eseguire dei tagli, delle linee di taglio. Quindi ciò significa che con una precisione submillimetrica possiamo far vedere al chirurgo dove deve andare a tagliare, dove deve andare a resecare le varie componenti, come andare a ricomporle, con l'obiettivo ultimo di migliorare l'accuratezza dell'intervento e portare dei benefici al paziente. Ed entriamo in sala operatoria insieme al dottor Giovanni Badiali, responsabile del progetto presso il Policlinico Universitario Sant'Orsola di Bologna, che ha eseguito l'operazione. Dottor Badiali, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Badiali, che effetto fa essere guidati da un visore a realtà aumentata? Beh, innanzitutto è una grande soddisfazione perché è il coronamento di tanti anni di ricerca. Abbiamo capito che l'aiuto che questo sistema può dare al chirurgo potrebbe essere significativo, in quanto tutta una serie di informazioni che oggi sono mostrate al di fuori del campo operatorio del paziente, con questo sistema possono essere visualizzate sopra il paziente nello stesso sguardo del chirurgo che opera il paziente. Il concetto, per capirci, è simile a quello che succede nell'automobile quando dobbiamo mettere in relazione l'informazione che il navigatore sul cruscotto ci dà e la strada. A tutti è capitato che, nonostante l'uso del navigatore, capiti di sbagliare un incrocio, perché per mettere in relazione quell'informazione ci serve del tempo, un lavoro mentale di orientamento nella realtà. Se quelle informazioni fossero virtualmente, ovviamente, dipinte sulla strada, l'approccio sarebbe molto più intuitivo e probabilmente l'incrocio non lo sbaglieremmo. Se torniamo alla chirurgia, questo significa probabilmente accuratezza maggiore e forse anche minore invasività e auspicabilmente tempi operatori ridotti. E tra poco vi aspetto in diretta Facebook. Oggi con noi Filippo Ungaro, medico, scrittore, divulgatore scientifico, coach, per imparare con lui le strategie mentali per cambiare le nostre abitudini e vivere meglio.